La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Subito il nostro numero per gli sms 349-238-6666 per chiedervi: il governo sta discutendo di riforme istituzionali, cosa ne pensate? E a proposito di riforme istituzionali, intervento importante oggi del Presidente del Consiglio Enrico Letta al Senato. In particolare Letta è intervenuto sulla tempistica relativa alla legge elettorale. In generale ha detto 18 mesi di tempo per intervenire sul meccanismo dello Stato sono un periodo giusto. Ascoltiamo allora questo intervento del Premier Letta. Quel drammatico campanello d'allarme che la bassa, troppo bassa partecipazione dei cittadini al voto ha voluto suonare per l'intero sistema delle istituzioni. Non possiamo accettare che votino in una grande città come la città di Roma, la capitale del nostro paese, un cittadino su due e che un cittadino su due non vada a votare senza non porci il problema tutti noi di che cosa questo significa. E non possiamo non partire da qui per la riflessione di cornice di quello che stiamo facendo qui oggi. Ed era il grido di allarme di Enrico Letta sull'astensionismo proprio nel giorno in cui si parla di riforme istituzionali. Vi ricordiamo il nostro sms 349-238-6666, subito il primo sms, mi dicono di nuovo: sei parente di Batman Fiorito? No, non sono parente di Batman Fiorito, per fortuna si ritirerà dalla politica liberando tutti gli omonimi da questo incubo. Grazie Massimo. Allora Vincenzo. Sì, sentiamo quindi Letta sull'astensionismo, l'intervento del Premier su questa tornata elettorale, ma lo abbiamo detto in apertura del nostro programma, l'intervento del giorno riguarda le riforme, 18 mesi, 40 parlamentari, superamento del bicameralismo perfetto. Il tutto nasce nella polemica del giorno all'interno del Partito Democratico la fuga in avanti, secondo alcuni, della proposta di Roberto Giachetti, renziano, che ha presentato una mozione per il ritorno al Porcellum e non la ritirerà, così ha detto Giachetti. Ascoltiamo Giachetti al tuo microfono. E dove sta questa crisi? No? Beh, Anna Finocchiaro ha detto che è stato intempestivo. Infatti, diciamo, la tempestività di alcuni ci sta portando a votare da 10 anni e forse per i prossimi 5, aspettando il momento opportuno per cambiare la legge elettorale. Lo diciamo tutti i giorni, bisogna cambiare il Porcellum, oggi c'è l'occasione per cambiarlo. E vedremo se lo cambiamo o meno. Io, diciamo, più tempestivo di così, c'è un dibattito sulle riforme, quando lo devo porre? Quando si discute di ambiente, no? Cioè, quindi meglio al limite ripristinare il Mattarellum, ma essere certi di andare a votare con... Ma questo non l'ho detto io, questo l'ha detto la Finocchiaro, lo ha detto mezzo Partito Democratico e l'ha detto il Presidente del Consiglio nel suo intervento alla Camera dei Deputati quando si è insediato. E allora perché si arrabbiano con lei? Perché renziano? A me, lo chiedo a quelli che si arrabbiano. Renziano, la mozione è stata firmata da 100 persone, la dichiarazione di voto finale la farà Antonio Martino di Forza Italia, del PDL. L'hanno firmata 70 deputati del Partito Democratico, di cui renziani sono 20. Di che parliamo? È stupito di queste critiche. Molto stupito, però sono abituato a stupirmi. Sono un romantico. Una mossa avversata, dicevamo, dal Partito Democratico, ma sentiamo quanto ha detto Anna Finocchiaro. Io credo che la mozione Giachetti sia stata presentata in maniera assolutamente intempestiva. Dopodiché penso che c'è una differenza sulla cosiddetta legge transitoria. È ovvio, è davanti a tutti. Io sostengo il ritorno al Mattarellum, i colleghi del PDL sostengono altro, sostengono i ritocchi al Porcellum. Vorrei che fosse chiaro, anche di fronte a questo non possiamo che trovare una soluzione che ci veda d'accordo. Ecco, queste le parole quindi della senatrice Finocchiaro, che al di là delle divisioni all'interno del Partito Democratico auspica che il partito resti unito, che in generale si trovi un'intesa sul percorso parlamentare. E allora abbiamo i vostri sms al 349-238-6666, subito il taglio dei parlamentari e delle loro prebende, il Senato è da azzerare, scrive Massimo. che siano tutti maledetti, scrive un altro ascoltatore, tornare al proporzionale per aumentare propensione al voto e indurre anziché imporre aggregazioni, scrive Roberto da Bologna, basta che noia, sono dei ripetitori, evidentemente il nostro ascoltatore si riferisce ai politici, sono anni che parlano e fanno solo i loro comodi, non gliene frega nulla del popolo. Bu, Elisabetta. Davide mi chiede, sei parente allora di Batman, vero, visto che non sei parente di Batman Ciociaro? Io dico no, sono parente di Wonder Woman. E nel frattempo anche il PDL, però parlando di cose serie, Vincenzo esprime la sua opinione su questo ritorno al Mattarellum, sulla forma di Stato che bisogna attuare. Sentiamo Maurizio Gasparri, PDL. Tempo di riforme e tempo di presidenzialismo. L'elezione diretta a suffragio universale del capo dello Stato deve essere il principale obiettivo. Cambiata la Costituzione si deve anche cambiare la legge elettorale, ma si deve partire da un obiettivo alto che dia al popolo un potere reale. Ecco, e da voi c'è qualcuno come Filippo Di Lucca che dice non è vero, la metà degli aventi diritti ha deciso di non votare e circa invece il 25-30% dell'astensionismo è fisiologico. È vero, proprio il problema adesso è l'astensionismo ed è un dramma, questo noi ne siamo consapevoli, come ha detto anche Enrico Letta. Intanto il Movimento 5 Stelle chiede anche che al referendum confermativo sulle riforme istituzionali votino i sedicenni e di questo, di cosa succede nel PD. Noi oggi abbiamo un po' sfrugugliato quelli del Partito Democratico, abbiamo intervistato un membro della Commissione Affari Costituzionali, Gian Claudio Bressa. Perché lei tende a confondere la posizione di Giachetti con il PD? La posizione del Partito Democratico è una posizione molto chiara e molto netta. Intanto stiamo discutendo del processo di revisione costituzionale e su questo il PD è unito nel votare la mozione di indirizzo che è stata predisposta assieme alle forze di maggioranza. E questa è la cosa più importante, perché è l'avvio del processo di revisione costituzionale. Quella di Giachetti è un'iniziativa che nasce un paio di mesi fa, quando non c'era questo governo, quando sembrava che tutto fosse fermo. Insistere su quella posizione mi sembra che abbia più un disegno di autopromozione che non un desiderio di risolvere un problema, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Gasparri ha detto addirittura che mette a rischio il governo. Bisognerebbe che tutti fossero un po' più tranquilli e pacati e guardassero le cose per quelle che sono. Ma il fatto per esempio che il Movimento 5 Stelle proponga che al referendum confermativo votino anche i sedicenni, come da parte del Partito Democratico, come viene visto? Oggi stiamo discutendo le procedure, quando si discuterà di riforma si discuterà anche di questo. Ma lei è favorevole a dare il voto ai sedicenni? Io sono favorevole del voto ai sedicenni in assoluto, non per quel referendum, però è una cosa di cui discuteremo. È un tentativo di Grillo di prendere un pochino l'elettorato più giovane? Credo che Grillo abbia altri problemi in questo momento. A distanza di due mesi ha perso più di due terzi dei propri voti, dovrebbe occuparsi di questo e del perché li ha persi. Li ha persi perché c'è stata la percezione che non è un partito in Parlamento, ma è un arruffapopoli e basta. E questo era Gian Claudio Bressa. Allora, Vincenzo, però ci sono novità. Sì, notizia di pochi istanti fa è che il governo, a quanto si apprende, dovrebbe esprimere parere contrario sulla mozione Giachetti, che chiede, lo abbiamo spiegato, il ritorno velocemente al Mattarellum. Il motivo, viene spiegato, sarebbe la contrarietà dell'esecutivo a mozioni che entrano nel merito delle proposte, visto che quella di maggioranza indica solo il percorso istituzionale e i tempi. Ma allora, il Movimento 5 Stelle, ne parlava anche Bressa, Elisabetta, cosa propone proprio sulle riforme istituzionali? Tu hai ascoltato il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Danilo Toninelli. Ascoltiamo. Allora, noi non escludiamo a priori nulla, ma riteniamo che sia molto più importante guardare i contenuti di un sistema elettorale. È evidente che non si possa andare a votare con questo sistema, considerati i rilievi che la Corte di Cassazione ha fatto nel rimando alla sentenza della Corte Costituzionale. Per noi è fondamentale che ci siano delle modifiche organiche e queste modifiche rappresentano l'introduzione del voto della preferenza, quindi non più nominati ma eletti, che permettano un riequilibrio delle premi di maggioranza, cioè stabilire una soglia minima delle premi di maggioranza e che di fatto equiparino la soglia di ingresso, di sbarramento sia delle liste che delle coalizioni, in modo tale che tutti abbiano proporzionalità effettiva di voto nella partecipazione e nella presenza in Parlamento. E questo era Danino Toninelli del Movimento 5 Stelle, e ci sono degli sms, continuano a prenderci in giro, è ora di dire basta veramente, dice Domenico. Ma la Finocchiana non si rende conto che ha stufato, usiamo un'espressione più tranquilla di quella di Pasquale da Salerno. Caroletta, chi la grossa non l'aspetti, l'aspetta. Massimo da San Gimignano, che si diverte anche un pochino con il linguaggio. E intanto però Beppe Grillo continua ad attaccare, non lo vuole questo accordo col PD. Assolutamente, queste sono un po' le ore, Elisabetta, di un confronto interno al Movimento 5 Stelle. Aia. Chi vota con il PD è fuori, lo ha ribadito anche oggi sul suo blog Beppe Grillo. Vediamo quindi. Volano le stelle, volano le stelle. Allora un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.